È da martedì che Los Angeles è avvolta dalle fiamme. Il primo incendio è scoppiato nella parte nord-ovest della città, ma poi, grazie soprattutto a forti raffiche di vento che hanno raggiunto anche i 130 km all'ora, le fiamme si sono estese in altre parti della città. Quasi 200.000 persone sono state evacuate e più di 5.000 strutture sono state danneggiate. Almeno 5 sono le vittime, anche se le autorità hanno chiarito che è ancora presto per un bilancio finale. Il sospetto è che altre vittime saranno rinvenute tra le macerie una volta che gli incendi saranno domati. Ovviamente la crisi climatica ha avuto un ruolo fondamentale nel creare le condizioni perfette per lo scoppio di incendi così devastanti. La forte siccità che ha colpito la California del Sud ha trasformato le colline che circondano Los Angeles in un deposito di combustibile naturale, che non aspettava altro di essere acceso. Le fortissime raffiche di vento hanno fatto il resto. Lo stesso vento che tra martedì e mercoledì ha anche impedito l'uso di elicotteri ed aerei da parte dei pompieri, mettendo a dura prova l'intero sistema idrico dell'area. Un aspetto importante è che questi incendi stanno dimostrando come per affrontare questa crisi climatica sia necessario un cambiamento radicale nelle priorità della società americana. Vittima di una visione neoliberale che ama tradurre qualsiasi problema sociale, ambientale e politico in un problema di ordine pubblico, Los Angeles, come del resto qualsiasi città americana, ha per decenni continuato a tagliare i fondi per servizi essenziali, pur di continuare a soddisfare le richieste di maggiori fondi da parte del Dipartimento di Polizia. Ed ecco allora che solo pochi mesi fa la sindaca della città californiana aveva approvato un taglio di più di 20 milioni di dollari al budget del Corpo dei Pompieri, portandolo ad un totale di 800 milioni di dollari. Il budget del Dipartimento di Polizia di Los Angeles? Più di 2 miliardi di dollari. A nulla erano servite le critiche arrivate dalla capa dei pompieri, che proprio ad inizio novembre aveva pubblicato una nota in cui sottolineava come il mancato stanziamento di maggiori risorse stava mettendo a rischio la sicurezza dell'intera città. Nel documento si sottolinea infatti come il numero dei pompieri a Los Angeles è rimasto quasi invariato dal 1960, nonostante la popolazione sia aumentata di quasi 1 milione di persone. Sono passati meno di 2 mesi e quelle preoccupazioni sono diventate realtà. Questi incendi dimostrano anche che la crisi climatica richiede un nuovo approccio alla questione abitativa. La casa deve essere un diritto, non un investimento economico. In California alcune compagnie assicurative hanno già da anni smesso di offrire coperture contro danni provocati da incendi e quelle che continuano a farlo lo fanno a prezzi proibitivi. Il risultato è che molte delle persone che hanno perso la casa in questi incendi difficilmente avranno le risorse per ricostruirle e allora probabilmente decideranno di vendere il terreno a dei prezzi inferiori a delle compagnie che non faranno altro che alimentare quel circolo vizioso che sta costringendo sempre più americani ed americane a vivere per strada. Solo pochi giorni fa il Dipartimento della Casa e dello Sviluppo Urbano ha pubblicato un dossier in cui afferma che nel 2024 il numero di persone senza fissa dimora è aumentato del 18%. Per finire, possiamo leggere questi incendi come la perfetta metafora di un anno che vedrà il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. La destra americana non ha perso tempo ed ha immediatamente trasformato questa tragedia in un'opportunità per diffondere odio e falsità. Musk e alcuni commentatori su Fox News si sono ferocemente scagliati contro i pompieri di Los Angeles, suggerendo un assurdo nesso casuale tra la loro leadership, costituita da donne e per di più queer, e le difficoltà che i pompieri avevano incontrato nel contrastare gli incendi. Trump, nel frattempo, ha accusato il governatore della California di non aver voluto firmare durante il suo primo mandato un fantomatico trattato che avrebbe risolto, sempre secondo lui, l'emergenza idrica dello Stato, salvo poi scoprire che il trattato non è mai stato presentato. Insomma, a ben guardare, forse all'inferno non c'è finita solo Los Angeles.